dalle scatole, e quindi le motivazioni potrebbero essere anche altre, che ti hanno preso in antipatia, che chi lo sa, vale a capire la mente della gente, però succedono anche queste cose, quindi a prescindere dal baracchino, non baracchino, antenna, non antenna, stanno rendendo la vita dura a una persona, e questa è una prepotenza configurabile anche come stalking. Quindi Natalia, stati tranquillo, però carte alla mano, sempre, sempre pronto. Se è possibile, registrati anche quello che dicono, così gliela metti proprio dietro, perché a tutela tua tu puoi fare anche le registrazioni, è legale. Quindi se ti minacciano queste cose, tu accendi il telefonino, lo metti in registrazione, ho tante applicazioni, e poi ti diverti tu. Tu puoi prendere tutto, fai un bel pacchetto, consigli a chi di dovere, e vedrai che le fanno una bella visitina, chi ha l'idea, questi signori. E penso proprio di sì. Ma non ce l'hanno col baracchino, ce l'hanno col televisore adesso, è diverso. È proprio quello che ha detto Gianfranco. Ce l'hanno, ma stanno facendo difetti a me. E evidentemente gli hanno detto di chiamarsi i tecnici, perché se intervengono loro li costa. E allora quello lì, per rispetto, mi sta facendo quello. Tu non ci cascare, che questi vogliono essere picchiati, è quello che stanno aspettando, perché poi dalla ragione passi al torto, perché ripeto, qua non è questione di baracchino né di negli antenna TV, qua è questione di spizzi, perché guarda, io ne conosco tante di cose che fanno, tipo che stendono bagnato per bagnare la roba di sotto, e si sfiora la vita, deve intervenire l'amministratore, cose di questo genere. Tra l'altro, dimmi quanti, il numero delle persone dal palazzo di fronte, cosa c'hanno, un amministratore, quante famiglie sono? Di fronte non disturba, credo che disturbi quelli di lato, forse ti riferivi a quelli, Gianfranco. Sì, questo gruppo di persone che rompe le scatole, ciao Marco, ha fatto colazione, sì. Sì, ho finito poco fa, no, ho mangiato poco fa. Ehi, se sono almeno in tre, è associazione delinquere pure. Tre persone sono. Quanto? Tre, contando quello là, sono quattro. Ok, d'accordo, ma nella struttura del palazzo? Nella struttura del palazzo in quanti sono? Cioè sarà una palazzina, poi è un palazzo con tre famiglie. Sì signore, tre famiglie. Tutti da... E quindi non c'hanno l'obbligo dall'amministratore, perché se no, se ci fosse stato l'amministratore, insomma, questa gente non ci doveva neanche parlare. Se si è parlato all'amministratore, l'amministratore sa benissimo, perché la maggior parte oramai è abilitata, anche a conoscenza delle norme, quindi non avrebbe mai permesso una cosa del genere. Siccome questi sono tre cani sciolti, in parole povere, e vanno a rompere le scatole al prossimo. Quanto è duro, Marco, avere una vita tranquilla. Vabbè, io ho avuto un battibecco dove abbiamo il garage per accedere alla un garage piccolo, diciamo, oggi sta una 500, una Smart, una moto, e siccome hanno messo il cancello elettrico per accedere alla piazzalino, al micro piazzale di garage, mi serviva la chiave. Io, per non chiedere a mia zia, ho chiesto all'amministratore, no? E siccome il garage è in coproprietà, come tra i vari fratelli, no? Cioè mamma, mia zia, mio zio, vabbè, eccetera. Ho chiesto all'amministratore, ho detto sono tale e tale, nome e cognome. Ma io non la conosco, io non le posso dare niente, qua insomma. Ci stavamo un po' scaldando, ho detto sì, ma se vuole le faccio vedere i documenti, non è che, insomma, alla fine l'ho chiesta a mia zia, fatto prima, però è un po' particolare con l'amministratore, un po' particolare. Lo so, ma tu sai benissimo che la mamma degli imbecilli c'ha molti figli, soprattutto in determinati periodi, e questo è uno di quei periodi in cui ne ha formati parecchi. Purtroppo è così, anche io sto facendo a Natalino, c'ho il contattore chiuso e arrivano le bollette della parola. Guarda, siamo già 2 anni mandando fotografie dal contattore che è sempre fermo, tutte vetture, loro devono avere qualche mago, no? Con la sfera di cristallo che dice tizio, consumato, numero, eccetera. E quindi ti tocca stare dietro a queste cose che veramente può andare bene. Una, la prendi come un errore, 2, la prendi come una refrazione, e 3, inizia una persecuzione, perché non puoi stare ogni 2 mesi ricevendo bollette che alla fine fanno conto, capito? E quindi tu non le paghi seguendo il consiglio dell'avvocato, però è veramente una cosa indegna, no? Non esiste un paese civile una cosa del genere. Quindi ti capisco benissimo quando sento gente che si lamenta, e tutto ciò è creato da una giustizia lenta e soprattutto da un mancato rispetto delle regole da parte un po' di tutti, quindi c'è questo problema. C'era una suora che diceva pazientare prima virtù, la pazienza è la prima delle virtù, quindi cerchiamo di farne un buon uso. Ma cioè il contattore non gira oppure è proprio chiuso? E tu per l'acqua come fai? Noi siamo autonomi, cioè abbiamo un posto di proprietà, quindi stiamo pensando anche di fare una distretta, sperando sempre che per la sfiga non ci faccia esaurire il posto, capito? Ma sono cose assurde, guarda, sono cose da fantascienza, e che loro ci provano perché pensano sempre, guardano soprattutto secondo me l'anagrafica, e quindi vedono che c'hai 70 anni, ne hai 80, e quindi di lì inizia a fare buon gioco, capito? Perché queste persone fanno queste catture e pagano, e magari il contattore poi è chiuso, o hanno dei consumi molto inferiori. È una forma di delinquenza, di mafiosità veramente indegna, perché è fatta soprattutto verso i più deboli, e quindi è ancora più odiosa. E ce n'è molta. Sì, quando la mamma, sai, vista l'età, anche questi che vengono a casa con la scusa del questionario, poi ti vogliono rifilare libri, abbonamenti a cos'era, Mondo Libro, una cosa del genere. Sì, era un contratto alla fine, mamma stava per firmare, sono uscito io dall'altra stanza, ho detto guarda, ma questo è un contratto, questo non è un questionario. Ho aspettato l'ultimo momento proprio per far rimanere in merda quelle, scusate il termine, vabbè, già avete capito, no? Anche con queste cose telefoniche, è una cosa allucinante. Poi ogni tanto qua passa, di tutto passa qua, bussano tossici con piantine, magari rubate nel condominio a fianco, no? Nell'androne del condominio a fianco. Sì, riprendi Natalia. Eia, qua mi sono comprato questo apparecchio qua, un Superstar 3009, omologato, no? C'ha 40 canali solo, mi ho scaricato per il sicuro anche il coso del ministero, a chi non si sa mai, un disco. Sì, lo so, anche se non entro, sono quasi sempre in ascolto. Mi raccomando, il microfono è nato lì. Precauzione, se c'è roba strana attaccata, amplificati, eccetera. Siccome deve essere integro l'apparecchio, ci metti il microfono suo. E poi, quando se ne vanno, poi ti metti quello che ti fa. Ma questo è marcato CE, e l'MBT4 è marcato CE. Non mi hanno detto niente l'altra volta per questo. Ho capito Natali, ma come diceva quello, per non saperne leggere né scrivere, questo è l'apparecchio, questo è il suo microfono, questo è il suo alimentatore, e 3 rigino le spalle e vanno a martellare le spalle a, a quelli che li hanno chiamati. Allora, questo è il microfono originale, come sta uscendo? Tolto quello là, ecco. Io ti sento benissimo. Poi penso anche a Marco, perché insomma, di norma. Marco, lo senti bene, vero? Sì, sì, modulazione normale. Abbiamo stesso apparato e stesso microfono. È marcato Star. Capito? In questi è scritto Superstar, non è attaccato Superstar, Superstar, ed è quello praticamente della Proxel nel mio caso, che poi è importato a sua volta per l'Europa dalla Piernaz Comunicazioni Spagna, e poi in Italia lo commercializza la Proxel. Va bene. Capito Natali, non è che sia vietato, però che una volta che si balla bisogna essere certi di tutto, quindi per precauzione tu attacchi quello e ciccia. Quando dunque verranno a vedere Fasturia di questi che vogliono anche buttare giù l'antenne, ma proprio va, c'è gente che sta montando, c'è gente che la pacciano proprio da odia, deve essere sempre in guerra. Ma questi poi sono in guerra anche con altri, giusto per altri motivi. Santa pazienza. Gianfatti, volevo dire, prima hai parlato di registratore, applicazioni per Android, non per gli smartphone. Però da quando ho aggiornato Android 9, nessun registratore funziona più. Quelle applicazioni che registrano le telefonate più o meno automaticamente, no. Non che mi serva, ma è una cosa che vanno per scelta di Google, non, cioè, immagino per la legislazione americana, non italiana. Ci siamo passati anche noi. Con Android 9 non si può più registrare. Cioè, ho provato anche le varie fonti, in uno potevi selezionare le varie fonti, che poi siamo sempre lì. E non ne funziona uno, l'audio sente praticamente radio 0,1, bassissimo, quasi incomprensibile. Capito, decisione di Google, magari attinente alle leggi americane, siccome noi siamo un potentato degli Stati Uniti, dobbiamo sottostare. No, non mi risulta, perché io ce l'ho sul telefono. Guarda, c'è anche il 9, credo di avere il 9. Adesso tra altre cose sto diventando anche discretamente cibio. Penso che non sia così, perché in Europa comunque fa testo la legislazione europea, e siccome l'ho controllata l'altra settimana la questione delle registrazioni, perché bene o male mi devo occupare anche di privacy, e quindi uno può registrare tranquillamente in Italia. La cosa che non può fare è diffonderla a terzi, tipo come fa certi imbecilli su Facebook, Twitter e così via, capito? Però se per uso personale tu puoi registrare, la puoi usare anche in tribunale, anzi le fa un piacere al giudice, così almeno fa prima. Sì, sì, è vero. Uso personale o legale, ma non diffonderle a terzi o peggio sui social, quindi a più persone. Sì, questo ho controllato Android 9, ma non ne funziona uno, ne ho provato vari. Con Android 8 funzionava, o comunque dopo un aggiornamento partito, questo è aggiornatissimo. Non va, si sente la mia voce, ma non si sente quasi quella dell'interlocutore. Proprio una cosa, devi attaccare l'orecchio all'altoparlante. Guarda che questo è un Huawei, quindi magari Trump ci avrà messo il suo zampino, che non li può vedere. Guarda, coincidenza vuole che anche il mio sia un Huawei, ed è esattamente il numero della building è 910258, che è aggiornata da poco, versione Android qua da 9 come semplificazione, evidentemente, però è l'ultima, quindi è un Huawei X5. Poi ci metto la, siccome questo è secondario, mi serve per altre cose il telefono. Sul principale sono certo che funziona, però mi sembra che sia, non me lo ricordo se anche quello è 9, come quella, però lo installo e poi ti faccio sapere se funziona. Niente, vediamo Natalino se lui è andato a prendersi il caffè, così si innervosisce ancora di più. Natalino, tu non dovresti bevere né caffè e né zigarettare, mi per il cuore. E anche soprattutto non si deve fare mal sangue con queste storie. Ridi, chi ride bene chi ride ultimo. Oh, Gianfranco. No, naturalmente rido tra virgolette, no. Ti dicevo, Gianfranco, sì, ma era una cosa nota, tutti i siti di Tecno Schifezze ne parlavano, no? Qua il numero di Build 910297. Non so che dire. Poi ci sono rari casi in cui in alcuni telefoni funziona lo stesso, su alcuni telefoni non funziona, sulla maggior parte anzi dei telefoni non funziona, su rari telefoni funziona. Tu hai avuto quello buono, diciamo. Poi ho letto anche dell'app Immuni, no? Notizia di 24 ore fa circa. Allora, questa app Immuni, che a me non interessa installarla, francamente, perché non so cosa faccia, magari è un Trojan di Stato. Il caso strano, sui telefoni Huawei non funziona, lo sai, c'è un bug, non si sa cosa sia. Guarda, il discorso è molto semplice. Gli americani sono così stizziti dal fatto di essere spiati dai cinesi, perché fino adesso l'hanno fatto loro con tutti gli altri. Quindi è come dire, no, qua ci sono io, sto spiando già io e tu non devi spiare. Quindi sono cose che lasciano il tempo che trovano, veramente. Ci sono, penso, qualche miliardo di telefoni in giro, anzi qualche miliardo, molti di più di qualche miliardo. E pensi che abbiano la possibilità tecnologica di tracciare sicuramente, ma di registrare le telefonate, poi di ascoltarsi a Marco che parla con chissà chi, eccetera. Sono sempre stati intercettabili i telefoni in realtà, quindi non hanno bisogno di metterci un'app, di fare queste cose. Quindi lasciano il tempo che trovano, guarda, tutte queste fake news e compagnia cantante. Sì, vabbè. Ma io mi ricordo di un vecchio telefono, uno dei primi cellulari. Stiamo parlando dell'anno di grazia 1994, mi pare fosse lo Storno di non so che marca. Mi pare che mettevi un pezzettino di stagnola, non so, tra due contattini della batteria, o non mi ricordo, in un punto particolare, e questo raccontato, ma quasi sentito dal vero, per non dire sentito, e sentivi le telefonate degli altri, come sta storia, che pasticcio era. Guarda, magari l'avessi trovata io con la stagnola, però non l'ho trovata mai, perché questa stagnola ascoltava la polizia, con questa stagnola facevi nascere i bambini, trovavi subito una bella ragazza, insomma, la stagnola, neanche la sacra sindone era così, guarda. Quindi, oppure il calice lì dei templari. Poi guarda certe cose su YouTube, certe che sono veramente da ridere. Ma sai che stagnola mettevano? Cioè, è presente le sigarette, no? Quello che, come apri il coperchietto, c'è quella specie di stagnola che protegge, no? Loro lo mettevano lì e si sentivano, io non so se era casuale la cosa, no? Sentiva altre telefonate. Poi invece a me era successo che con la, mi pare fosse ancora tax, forse non era ancora GSM, ma qui lo dico, qui lo nego, con una ragazza stavo parlando, vabbè, la ragazza dell'epoca mia, a un certo punto ci siamo trovati in quattro, lo sai, io, lei, sono comparse queste altre due voci, un ragazzo e una ragazza, sentivamo parlare, tu chi è? Alla fine ho detto, ma quanti siamo in questa telefonata? Una specie di accavallamento, non te lo so dire, e non mi ricordo appunto se era tax o GSM, ma credo tax. Poi per registrare un tax all'epoca lasciamo verde, GSM è un po' difficile, anche se so che hanno craccato anche quello, però ci sono dei sistemi particolari, solo che non sono a livello di normale ascoltatore, sono cose, sono valigette che vendono a uso particolare, che fanno da cella di interposizione, praticamente sì, loro creano un bridge tra l'utente e la cella e si mettono in mezzo, quindi in ogni caso la cella vede il suo telefono, però poi in mezzo c'è qualcuno che si sniffa tutto quanto, capito? Sia dati, sia sms, sia watch, però insomma non è una cosa che uno faccia la compra, ecco, perché costa veramente un pacco di soldi, e poi in quel caso lì funziona vicino al cellulare, nel senso che deve essere una distanza ragionevole, che presumo sia utica, per poter agganciare quel, e tenere agganciato, perché poi se benissimo il telefono ruota, no, non rimane sempre sulla stessa frequenza, e quindi di avere la possibilità di ascoltare quel particolare utente che ti interessa. Android versione 10 addirittura funziona il registratore da me. Oh, e allora ti ho detto che Trump ci ha messo lo zampino, a parte quello di Gianfranco. Questo non è rotato però, Gianfranco, credo di aver capito che se rifai le root, l'accesso, vabbè, già capito, root lo chiamo, puoi ripristinare il tutto, però questo credo che ancora sia in garanzia, 2 anni non sono passati, poi si vedrà, ma non sono smanettone, non me ne frega nulla. Gianfratti, volevo dire, ma per caso questa cosa di interporsi tra l'uno e l'altro è paragonabile a quell'attacco informatico che veniva chiamato all'epoca Man in the Middle, l'uomo nel mezzo? Beh, più o meno in effetti è così, perché tu, pur risultando trasparente, sei tra una cella e l'altra, ecco, capito? Adesso la sto installando, vediamo cosa succede. Si installa. Ecco, sto scaricando. Io sto facendo la conversione di schede Wind. Adesso ne ho due. Devo dire che come copertura sono non soddisfatto, di più. Perché praticamente anche in zone abbastanza pesanti sta funzionando. E proprio su Huawei ho notato che stanno mettendo le loro celle, perché mi porta proprio su una cella marchiata, non più quelle che c'era prima della X3. Aspetta, mi era venuta una cosa in mente, tu Gianfra avevi mai visto il film basato sulle attività di Kevin Mitnick? Titolo del film com'era? Tipo Hackers 2, anche lì c'entravano codici nascosti all'interno di cellulari, roba del genere, in modo da intercettare telefoni altrui, sempre all'epoca era tutto tax, almeno credo di ricordare. lui, a parte quello, tutto quello che faceva poi dietro, insomma, era bravo anche a girare le persone, no? Però, più che, vabbè, a parte l'hacker in sé, no? Era bravo proprio a fare i fessi impiegati creduloni, no? Com'è che si chiama? Ingegneria sociale, quella cosa lì. L'avevi visto poi? Adesso non ce l'ho presente, però guarda, sono possibili tante cose, quindi sto controllando, come sapeva? Che hanno messo sul santo di questo affare? Aspetta che mi sono impallato, l'ho installata sì l'applicazione, pensavo fosse uguale a quella che c'è sull'altro telefono, ma mi sa che è un po' diversa, ed è sul Huawei, proprio non so il modello che c'è tu. Ehi, è tornata lì, preso il caffè. Ehi, e te credo. Ma c'è penuria di gente al baracchino, ma non state entrando, per esempio Claudio, non state entrando, non si sente più nessuno. E cosa vuoi che ti dica? C'erano fino a poco fa e poi se ne sono andati, Gianni è andato a portare via il cane, a portarlo giù, dopo chi c'era? È entrato Rubroffetta, gli ho detto fatti sentire di più però Gianni, gatta, gli ho detto. Sì, io l'ho sentito che stava chiudendo in quel momento, stava proprio chiudendo. E d'altronde, Natalia, finita la clausura, la gente esce di più. Capito? Bisogna uscire di più. Vabbè che cioè alla fine i posti dove andare, sempre Alghero, Platamona, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, capito? Alla fine sono sempre i soliti posti a fine settimana, mamma mia. E adesso io devo andare a comprarmi una parabola, un decoder, per poter vedere la TV, sai, mi ne attacca a vero di nome Nabizu, mi ne attacca prima di lui, isso. Per il sicuro, no? Poi lunedì mi metto lì, se poco poco mi tocca l'antenna, che non me l'ha già buttata giù, gli chiamo i carabinieri mentre la sta smontando, così almeno lo beccano sul fatto. Così prende un po' lo spramo oppure, non dico scenda, quindi così, ma Marco funziona normalmente, guarda, senti, non aspetta, vediamo un po'. Quindi ovviamente registra anche le telefonate, basta spuntare il segno di spunta. E mi sembra che vada bene, ero anche lontanissimo dalla radio, quindi l'amplificazione c'è. E te credo, va benissimo. Ascolta, io c'ho una penna SDR, però non ho i driver di questa pennina, cosa dici? Mi conviene comprarmene un'altra, almeno mi dà, perché l'avevo comprata anni fa, poi non l'ho messa mai in opera. Guarda, a me mi è arrivata, manco fuori la porta stamane, mi è arrivata, che però non è molto economica, devo dire, la... nome c'è, si chiama Elec, che è canadese, mi serve per ricevere il satellite, però ho visto che sì, funziona poco a poco, ma proprio poco a poco, un pochino più degli altri, però le altre costano 4 citti e questa costa 35 euro, che non è molto da no. Però dice che c'è una fischiata scalda con un accidente, quindi il mio consiglio è innanzitutto vedere come come che processore c'ha. Poi vedremo cosa succede quando la colleghi al coso, al computer tramite USB. Non te la riconosce, o te la riconosce, perché a volte la riconosce come un oggetto che non c'entra un tubo. Mettere un programmino che si chiama Zilic, credo, per installare i drive, molto molto semplice, una cavolata, e così lui ti installa i drive della chiavetta, dopodiché utilizzi un altro programma che si chiama SDR Plus, credo che sia SDR Plus, e dovresti essere a cavallo, Natali, altro non puoi ascoltare, poi dipende da cosa puoi ascoltare, se in alto, in basso, a destra e a sinistra, perché ho visto che vengono massacrate dai segnali forti, capito, anche agli accenti, tipo io qua c'ho di fronte Usilo, la stazione del coso, il portatore della radio mi massacra letteralmente oltre il 10 e quindi la sento replicata in varie frequenze, poi non parliamo di altre ore. Quindi insomma, però funziona, no? Natali, ma quel il padrone del palo dove tu c'hai le antenne, non è che col cuore per caso? Quello vedrà che gli faccio passare tutta la fantasia, perché lunedì li chiamo i carabinieri a quello che sarà a piazzare a togliere l'antenna e mi faccio dire come si chiama e tutto, e denuncia già tutti. Secondo me è poco male, guarda, c'è anche Eugenio, avanti Eugenio! Eugenio, mi senti? Vabbè, ce l'ha lui sotto. Che casino, va, ma ormai non ho di questi problemi io, va. E tu, guarda, ti hanno tagliato il capo dell'antenna a te. Ehi, vabbè Natali, l'ho tagliato il capo dell'antenna, ho voluto io sorvolare, dai. Però adesso, grazie a Dio, non ho più avuto questi problemi. A parte che sono sopra il mio tetto, prima di tutto, e poi non ho più avuto questi problemi. Ma solo dopo sono di nuovo fa, cioè se lo farò di nuovo, allora la cosa cambia qua. Fatichiamo, ci stia a lungo, no? E mi pare a me, ero passato pure a Dronchese, mi ha musicato un poco di Gabi, così tanto babbuffuna, per gradire, no? Breccate. Avanti. Ciao Natalino, ciao Luca, chi c'è qua? Era su 12 con Riccardino, dovrebbe essere entrato anche Riccardo qua. Ci sei Riccardo? Sì, sono qui Roberto. Ehi, a chi c'è lui oltre a voi due? Ciao, tutto bene, io Gianfranco, Natalino, chi altri c'era? È Riccardino, che fa anche rima. Ma Doppio Room non è rientrato ancora, no? Oh, comunque ben sentito a tutti, ciao Marco, ciao Gianfranco, ciao Natalino, ciao Luca, Riccardino era come nell'altro canale, per cui facciamo rilanciare a Riccardino e saluta anche lui. Ehi, grazie Roberto, ciao Roberto, Luca, Gianfranco, Marco, Natalino, eventuali in ascolto, se mi sto dimenticando qualcun altro si faccia vivo. Ciao Riccardino, ben sentito anche Roberto, ben entrato, avanti Roberto. Una domanda, ma che fine ha fatto Gianni Rubroffetta? Coso, Nicola, non mi ricordo neanche come si chiama, il nome attivo, vabbè, non li ho più sentito, vabbè, Nicola di Sugita qualche settimana fa, ma proprio Gianni Rubroffetta è sparito. No, è entrato stasera, infatti gli ho detto cerca di farti sentire un po' di più, gli ho detto. Avanti Marco. Sì, Nicola mi pare si è affacciato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo quando ero rientrato, solo che c'era questa portantina che andava e veniva, certe volte non è portantina ma è portante un po' più forte e alla fine vai Roberto. Una lunghezza portante, mamma mia, io dico ma che divertimento bestiale. Poi non bisogna dare neanche troppa importanza, quando c'è basta, non gli si dice niente, così vedi che si stanca anche lui. Vabbè, si stanca, ma se copre gente non si riesce a modulare. Vabbè. Mamma mia, questi messaggi WhatsApp, che palle, adesso. lo disinstallo, guarda. Ah, c'è anche Gianfranco? Sì, sì, c'era, forse sta facendo roba allo smartphone. Gianfranco, sì. Disinstallalo, se hai coraggio. Sì, ci sono ancora, ma ne approfitto per andare via perché io devo ancora cenare. Sono impegnato sul digitale a controllare alcune cosette, anche lì tra l'altro stanno spuntando le persone strane, sono riuscite anche a arrivare fin lì, pensa. E niente. Saluto tutti, generali, caporali, brigadieri e tutto. Ciao Natali, comunque hai capito, funziona con i drive, ci metti Zelig e te li installa automaticamente, che è un programma proprio all'uopo per fare quel lavoro. Ok, vi lascio, ciao a tutti, buona serata, buon proseguimento, me ne vado a cena. Ciao Gianfranco, riprendi Marco. Ehi, ciao Gianfranco, dai, buon proseguimento di serata, buon tutto, dai. Vai Robè, riprendete voi che devo vedere i messaggi. Ehi, ciao Gianfranco, ben sentito, anche se per pochi secondi. Vai Riccardo. Ehi, ciao Gianfranco, ben sentito e alle prossime. C'è Luca, avanti Luca. C'è qualche dato qua sul 10 che ci siamo dimenticati? Poca roba a me Robè. Io sto sentendo ben poca gente. Ora che abbiamo ricominciato chi a lavorare e chi a uscire, un po' lo capisco. Al limite sono le portanti, no, non vanno mai in ferie, capito? Davvero, no, io e te poi ci abbiamo fatto una bella chiacchierata con Fabio, siamo rimasti, sì, no, ti ricordi quando adesso chiudo, dovevo chiudere 2 minuti ed erano le 10, abbiamo iniziato a parlare, che siamo stati e lui parlando sino a mezzanotte e 10, alla fine ha detto, se no poi non riusciamo più, abbiamo toccato degli argomenti di tutti i generi, sia tecnici che anche di altri generi di cose, e alla fine avevamo tanti interessi in comune e non si finiva più di parlare, è stata proprio una bella conversazione. Quando trovi l'argomento giusto è sempre bello. Non sei sentito oggi Fabio? No, io ci sono da circa un'oretta o tre quarti d'ora, no, non l'ho sentito ancora. E io riprendi Natali. Un attimo che sto cercando un programma per così via. Già rimango in 2 weeks. Ok, vai Riccardo. Oh scusa Robè, sì, sono qui. Ehi, ti prendi tu o se no chi c'è? Chi è? È Eugenio. Il più forte del portatore del bene, Eugenio, che fine hai fatto? Ehi, tranquillo. Ma Eugenio c'è. Ma deve essere in movimento, era Santiago Otto, stava arrivando qua. Dice che non c'è la polizia, ha mollato il mic. Ah, io che ti vogliamo sentire bene, questo Santiago 7 fa ridere, dai, che non è da te. Santiago 5 qua, avevo lo squelce e non mi ero accorto di lui. Ciao Eugenio, se mi copi, non credo. Ciao Riccardino, vai a ricapere Eugenio. Buona Eugenio. Cacca, non mi dire non ascolti a Riccardino, sennò ti buco le ruote. È arrivata la polizia. Eugenios. Vuol dire che hai fatto una rapina, stanno cercando la te, dai, ci sentiamo dopo. Eugenio, vai Riccardo. Vado avanti io. Cosa ho detto? Non ho sentito bene Eugenio, che stavo facendo altro intanto che sono qui. Se me lo potete ripetere. Ha detto che ci sono un bel di posti di blocco e lui è in macchina e non vuole farsi sentire parlando in radio perché non si può, non bisogna utilizzare cioè le due mani devono essere attaccate al volante. Buonasera! Esci a vedere. Ma dove sei? Ancora al porto? Sì. Ok, Marco lì, riprendi. Sono senza parole, aspetta qua, mettendo mano al telefono. Sono in fase calante, dai, adesso un caffè in vena, un bel caffè iniettato in vena, oppure infracardiaco direttamente, tipo Pulp Fiction. Tipo il parina che la spari dentro sul cuore. Dimmi oggi. Certo, che cosa devi fare? Ma per la moto? Ma è il camper! Portamelo a vedere. Ma domani mattina lavorando stai? Domani mattina? Ma se passi non c'è per nessuno, domani ci siamo fino alle 10, domani è sabato. Vabbè, vieni in settimana quando vuoi, dai, così ti diamo uno sguardo. Eia. Ok, vediamo Riccardo Cuor di Leopardo, a lui il mic. Oggi Robè, come la metti? Ok, forse mi posso trattenere di più se tranquillo. Perché cosa c'hai? Ieri perché non ti potevi trattenere? Perché per uscire in campo, perché ieri hai sentito che ho dovuto sbaraccare presto perché stava iniziando a piovere e dovevo portare tutto dentro. Vabbè, ieri ha fatto una bella passata di acqua, dai, oggi comunque non piove, dai, neanche domani, è tutto tranquillo. Cosa è oggi? Cosa ha detto Riccardo? Diceva un po' di cosa forte, non ho capito. Sto scendo molto forte. Ah, perciò ho capito, c'è propagazione forte, avevo capito. E non hai visto niente, aspetta quando attacca la direttiva che ti scioglie lo Smith. Come mi ascolti a me, Uge? Vediamo qua sul 10 se è rimasto qualcuno, avanti 10, chi vuole entrare? C'è Natalino, cosa c'è? Natalino, ci siamo? Sì, ci sono, però sto cercando questo programma. Ah vabbè, scusa, continua pure. Ok, io la cosa che a me mi dà un po' di stizza, cacchio, certi momenti ci sono 20 persone, a giù mai ci affariamo per entrare, non mi hai fatto entrare, poi ci sono dei momenti di calma assoluta e dico non c'è nessuno che vuole entrare, nessuno che argomenti, per dire oggi siamo in pucchi, si poteva anche fare un bel QSO, invece nulla. L'altra lì erano i 20 bassoni, uno sopra l'altro, qualcuno si spostava perché non lo facevano entrare, qualcuno dice che la scarpa è stata quando stava parlando, eccetera. Da quello si può uscire, se la gente lascia la radio, non si lascia la radio perché si può uscire se ne vanno in giro, no? Naturalmente. Capito? Davvero. Da quando è andato via Eugenio che metteva un po' di ordine qua, cacchio, ci sono dei prepotenti, atti di bullismo, li devi vedere Eugenio, ci vuoi di nuovo tucca. Aia, aia, aia, cosa sta succedendo? In assenza, non va bene. E tu che mettevi ordine mio, adesso a cosa? A Luca l'hanno bullizzato, non lo fanno entrare, lui entra e la gente fa finta di non sentirlo. Eugenio, Eugenio. Ciao Gio, dai, alle prossime, buon tutto, dai, buona carica se devi farla e buon tutto il resto. Avanti Riccardo. Ehi, ciao Eugenio, fatti sentire più volte quando sei nel furgone, non stare lì da solo, che almeno hai un po' di compagnia. Come dice Claudio, pitbull. Più spesso, non più volte, più spesso. Scusatemi. Più di più devi dire. Ciao Eugenio, più meglio, dai, più meglio, più migliore. O più di più, dai. Che tutti mosci per oggi, c'è Natalino è moscio, Coso, Marco è moscio, poi Gavè, tutti. Dai, un po' di allegria ci vuole, divertimento. Allora, io Roberto sono un po' impegnato con il cane, dai, che si sta riprendendo, ma ormai ha mangiato, l'ho portato fuori, ha fatto i bisogni. Secondo me, sto pensando a questa vista di domani, che non è per i 50 euro, Robe, ma non ha senso secondo me, a dirmi che il cane ha i tumori, si sa già che il cane ha i tumori, me lo devo dire loro che ha i tumori. E certo, la controprova è l'analisi del sangue, la madre di Riccardino è veterinario, non è che un po' fuori mano, solo l'avresti fatta vedere alla madre, non è così Riccardino, la mamma non è veterinario. Sì, esatto, è veterinario. Allora, il discorso che, come si dice, quel coso che usciva fuori dalla patatina, praticamente, dice, gli esce poco e niente adesso, dai. Ieri usciva spesso, quanti ieri lo mettevo dentro, dopo una girata di occhi e usciva fuori. Adesso ho notato che oggi due volte l'ho messo dentro, dai. Con la vasellina e con il guanto, ovvio. Ancora ce l'ha dentro, vuole se sta passando, dice lui che una volta che gli passa il calore questa cosa qua poi va, si riduce, ecco. Luca, a che ora lo devi portare il cane? Mi ha portato. Ma lo devi ancora far visitare? Ah, pensavo a fare i bisogni, è domani. E a che ora però che potevamo passare? Io sono alle 9:30 lì. Via, ma non sono da Coso però, non sono da quello vicino a te, dai, sono in via Caprera. Ho capito. Da Tiana. Qua è comodo, Luca, sarebbe anche comodo perché è un passo, è proprio un passo. Se esco di casa faccio 100 metri, poi bisogna vedere a che altezza però è di Viale Caprera. A metà via. Di lusso, anche a piedi ci posso andare. Per dire, vabbè, adesso vediamo come. Vediamo. Intanto prima in cucina, cucinando, mi sono venuti gli occhi rossi, per dire quanto c'è il cuore tenero. Comunque Marco, prima di come chiamarlo, gli spieghi un po' la situazione e poi ti dà un appuntamento lui, come ho fatto io. Ma per te Marco, il veterinario? Certo, io sono una bestia, no, è la gattina che è da 3 giorni un po' che sta vomitando a vuoto, per il resto fa le fusa, gioca quello che vuoi, però il poco cibo che assume non lo trattiene. Insomma, sì Luca, comunque per appuntamento naturalmente non piombo lì, prima lo chiamo nel caso, però vorrei dare la precedenza alla veterinaria se possibile, nel caso, ma sai perché c'è oltre alla veterinaria, a seconda di come li gira, manco la visita ti fanno pagare, capito? Ti dicono a posto, soprattutto se ti vedono pignendi non ti fanno pagare. ma sono un po', tu l'altra volta avevo pagato... Cosa gli ha fatto? Ha controllato la pancia con la mano, l'ha toccata, gli ha controllato i denti, poi aspetta, gli ha l'orecchio, ma ci ha messo 5 minuti di orologio, non di più, 30 euro. E allora sei andato bene, secondo te ti capita, ne vedi di su. Ah, per carità, e poi mi ha speso 40 per le medicine. Un antibiotico è una pomata che andava, che è messa nell'orecchio, ce l'ho ancora, praticamente era uscito questo pus nell'orecchio, non so da cosa era dovuto, vabbè comunque era guarita, ho fatto la cura di queste medicine, questo antibiotico e questa pomata. E il cane, dicono, stavo parlando con il veterinario, mi ha detto che è un lusso per lo Stato, è un lusso, capito? Purtroppo è così, il cane per certi versi costa più di un cristiano. Buonasera, mi ascolta qualcuno, sì? Ehi, abbasso. Ehi, ciao Antonello, sono Cater Giovanna. Santiago 2 sei da me Antonello, fai che sei Santiago 5, là. Avanti Robert. 9.20 sei qua, infatti stavo dicendo come mai così basso, infatti sei da tua sorella. Infatti sono lì, infatti. Sono con quella della Filane, la verità, ma sono con la magnetica, la verità, sì. No, ti ascolto perfettamente. Vabbè, siamo attaccati. Vai, come si chiama? Riccardi. Saluto, cos'è? A Barracuda, se ho capito bene, io non lo ascolto. Comunque, ciao Barracuda, se sei tu. Che Barracuda? È Antonello Pomponio. Ah, Pomponio, scusa. Antonello, Barracuda, Pomponio, boh, non mi ricordavo. Vabbè, ciao Antonello, comunque, no, non lo ascolto. Antonello non è un Barracuda, è un grongo. Un lucio a porco vorrei dire. Aspetta che forse c'è qualcuno che sta chiamando. Avanti, chi chiama? Sì, buonasera, qua Bruno, la stazione Titanic in Siracusa. Non so se mi copiate. Sì, buonasera, qua Roberto, città di Sassari, mi ripeti il tuo nominativo, qua Roberto, città di Sassari, in compagnia di un questo, diciamo, locale, c'è Luca, Riccardino, il giovane della stazione, e Antonello. Avanti per te di nuovo Siracusa, se mi confermi il tuo nome. Vai. Ciao consulà, ci siamo da casa mia, a Sassari, ciao. Ciao Antonello. Avanti Siracusa, ascolti Nord Sardegna. Era arrivato pulito, radio perfetta, infatti sembrava uno qua vicino. Attenzione Siracusa, se vuoi riconfermarmi il tuo nome, non ho capito avanti. No, non capisco, vero che stai parlando, però non riesco a tirarti fuori, purtroppo si è abbassata la propagazione. Avanti Riccardo, dai. Lo sentivo fortissimo, comunque ciao Bruno da Siracusa, se mi ascolti alfa 21 a questa parte, è calata la propagazione comunque. Oh Robè, dimmi Marco. L'altro giorno guardando le foto di quel famoso apparato, il 4009, no, è Superstar mi pare, sì, cioè avevo capito che era 220, no, però mi ha colpito la parte elettrica, cioè elettronica, no, c'è la scheda, io credo che fosse già, sai, schede su schede, tipo apparecchi amatoriali, no, poi ho visto, vabbè, da una parte c'era il trasformatore con l'alimentatore da una parte, e dall'altra praticamente ho visto una scheda, ovviamente non uguale, ma molto simile poi alla scheda che vedi sui CRT 6009 per esempio. Cioè dentro me l'immaginavo diverso, tipo proprio tipo amatoriale, cioè schede su schede, capito? Bello pieno, caspita, ho visto una scheda normale, no? SMD, vabbè, comunque dai. Ormai è tutto miniaturizzato, è tutto dentro un processore, è come le chiavette queste USB che ci piazzano dentro, il possibile immaginabile. Per fare un apparato del genere con quelle caratteristiche, se lo fai di vecchia generazione, ci vuole un armadio per farci stare dentro tutto. Ma hai visto cosa c'è dentro? Che funzioni c'ha col baracchino? C'ha le due antenne, addirittura puoi attaccare due antenne. L'unico baracchino che ho visto con due attacchi di antenne, puoi attaccare il computer, puoi attaccare, c'ha l'ingresso per la rete, come si chiama, telefonica, c'ha tutto, può funzionare a 12 volt. A proposito, quella presa di tipo 5-6 poli, no, di tipo un po' antiquato, era del 2000 in pari l'apparecchio dintorni, ma serviva, che so, per decodificare il CV doppio tipo o anche per programmare l'apparato? Io penso quello lo puoi interfacciare a un coso, come la OR3000 che c'è, lo puoi interfacciare al computer, tutte le informazioni te le metti sul computer, per dire le frequenze, le bande, eccetera, eccetera, e utilizzi il computer come interfaccia, come hanno gli apparati amatoriali di nuova generazione, sono tutti così, hanno interfaccia col computer, tutto quello che vedi come tastiera lo puoi utilizzare col computer, ce lo usi come interfaccia. Sto dicendo, io non l'ho mai visto dal vero, ma so cercando di trovarne qualcuno, ma non ne ho mai visto in vendita di quelli apparati. Sì, ma deve essere anche a tiratura un po' limitata, perché ben pochi se ne vedono in giro. Cioè di Saturn è pieno, no? Questi, vabbè, forse non è stato capito me, non lo so. Comunque vabbè, ho visto la scheda, sì, comunque era bello vedere, guarda, su YouTube ci sono, mi pare, solo due video di quell'apparato, però nessuno che abbia fatto un video interfacciandolo, che so, al computer, per vedere cosa poteva fare, non ne hanno fatto, mi pare. Comunque lo dico, quello ne è, io ho visto due video, ma si vedeva solo l'apparato. E poi credo di aver visto quello stabo che ha il display, dovrebbe essere simile o identico, però al display, come si dice, è roba in negativo, cioè è sfondo scuro e i caratteri chiari. E vabbè, sono sempre LCD, sono display LCD, ma è bello, la versione satinata, diciamo argento satinato, è spettacolare, nera è bella, ma con l'argento satinato, una cosa da paura. Secondo me non lo trovi in giro, perché costerebbe, secondo me, una cifra esorbitante, e per quei soldi magari uno si compra un HF dedicato, però è un grande apparato, almeno come funzionalità e estetica è da paura, è il più bello che ho visto fino adesso. Ok, vediamo un po' se c'è ancora l'amico Bruno di Siracusa, se no riprende il Mike Riccardo, avanti Siracusa, Nisma. E poi c'era un altro segnale poco fa che ho rilanciato, non ho capito chi era, c'è qualcuno su 10? Vai Riccardo. L'ho visto, è calata la propagazione, a un certo punto era fortissimo, sembrava dietro l'angolo e poi si è abbassato. No, ma c'era una bella radio, secondo me quello stava utilizzando qualche apparato, diciamo, di categoria superiore, perché la radio era diversa dal solito, molto pulita, il segnale non era fortissimo, però la radio era perfetta. E stranamente, normalmente quando i segnali sono sul 7-8, un po' di correme te lo porti appresso, invece lui riusciva perfetto. L'ho visto, ho sentito uno che stava fischiando sotto, avanti, se no riprende Luca. Oh Robert, ascolta una cosa, ma i coperchi del 2009 non sono verniciati, hanno una specie di, non lo so, sono ruvidi, mi capito? Sì, è una vernice plastica, si chiama, è un effetto così tipo l'antirrombo, cioè è presente quello che usano all'interno delle macchine del passaruota, è una cosa del genere. E poi c'è proprio la vernice plastica, quella che utilizzano per fare la stessa vernice, la utilizzano per fare le strisce stradali, i corduli, quei colori che sono impermeabili. Ascolta, per verniciarli vorrebbe il rigato, perché c'è dei piccoli solchi, non si può fare niente, no? O verniciarlo solo. sopra. No, veneziane no, diciamo devi per forza abbassare, poi se sono cose profonde, se sono solo graffi basta abbassarlo, altrimenti se sono una mano di isolante, di fondo riempitivo isolante, poi una mano di verniciatura. Se no, se è una ammaccatura o cosa del genere, bisogna fargli appena appena la stucatina, cose che sono graffi abbastanza profondi. Questo che c'è qua, sì. Sì. Gli altri, vabbè, poi c'ha qua un po' scavato, gli angoli là, diciamo. Peccato. Sto vedendo così. Da un lato è uscito benissimo, va bene, a voglia. Sembra uscito al negozio. Ma tu lo devi fare uguale a quello lì, lo vuoi o che cosa? Mi sa di sì, vabbè, mi sa che facciamo uguale a quello. Se vuoi io lo porto a zero. No, vabbè, quello non ti preoccupare, no. Allora, se tu vuoi un effetto poroso, griffato, si chiama, non griffato, aspetta, adesso mi viene, graffato, si dice, non griffato, non penso a nulla, è roba di moda, griffare, graffato si chiama. Esiste un prodotto che si può dare sopra da quell'effetto tipo ruvido, tipo i paraurti delle macchine, oppure c'è un'altra soluzione, però io non ho il prodotto per farlo, sono proprio delle carte adesive particolari che si utilizzano per le macchine quando ti vuoi cambiare colore, cose del genere, le vengono anche a metraggio, mio nipote le aveva fatti, ci ha fatto dei particolari per la macchina, ci sono di tutti i colori, di tutte le qualità, rugosità, ruvida, liscia, effetto gozzo, eccetera. No, con quello no, capito quale stai dicendo, no, quello che hai detto prima ancora, quello che rimane un po' ruvidino, non è? Graffato, dai, eventualmente, ma uno solo è completo. Due sono robe, poi mi dici quanto la spesa, dai. Senta, basta che non mi spendi. Non ti preoccupare, dai, solamente non c'è problema. Ma perché anche quello di sotto rovinato? È graffiato, poi anche la mascherina è graffiata. La mascherina è, come si dice, cromata. Vabbè, purtroppo quello è un problema, ma in plastica la mascherina? Sì, in plastica. Quello è un problemino. Almeno io non sono in condizione di fare niente. Esistono dei prodotti, spray, cromo spray, però non è un granché. Ho fatto delle prove, degli specchietti abbiamo fatto in officina, però non ha lo stesso effetto. A quel punto tienetelo così, perché fare una cromatura sulla plastica e devi spedire, qua non c'è nessuno che te ne fa. C'era questi a Cagliari, ma lasciamo perdere. Da solo se la trovo su eBay, va su internet, vediamo un po', mascherina cromata per 3009. Sì, ma c'è qualcuno in disuso che ce l'ha, però bisogna stare attenti che non ti sia difettata anche quella. Riccardino, facci sognare, avanzate il mic. Vi faccio sognare. Io vado in carichetta e c'è il roast beef, non me lo posso far mancare. L'ultima volta che mi sono trattenuto poco, 5 minuti in più, ci avevano già spazzolato tutto, quindi mangio 10 minuti il roast beef e torno subito. Tu ti devi mettere d'accordo con tua sorella, dice, oh, mettimelo da parte, non lo toccare che me lo mangio io. La sorella è contro di me, non con me. Ah, così, invece ho detto, questi sono anima e core, come si dice, sto scherzando naturalmente. Ok, vai, mangia tranquillo, poi se ci siamo va bene, se no già avremo altre situazioni, altri momenti per risentirci, dai. Ok, e buona cena e buon tutto. Vai Luca per salutare a Riccardo e poi Marco. Ok, ciao Riccardo. Poi mi dici cos'è che questa roba che stai mangiando? Un roll di carne. Mica ingrassimi, poi diventi tutto pappa e ciccia. Avanti Marco. Diventi come la tarina. Dai, buon pranzo Riccardo. Sentiamo. Allora, vabbè, io qua ho trovato, la foto non la trovo più, non so perché, parla di Superstar 4009B, B di Bravo, non so se cambia qualcosa, però come foto mi compare sempre con l'apparato, e questo suggeriva questo tale Ralph Franer, delle modifiche pure a quell'apparato per migliorare le prestazioni, piccole modifichette di normale amministrazione. Stavo cercando di leggere il numero della scheda, riesco a vedere solo la data, riporta il 2000 come anno, però non riesco a leggere nelle varie inquadrature il modello della scheda, per sapere se è stata adottata anche da altri apparati. parte lo stabo? Non lo so, io ho visto solo quello lì e lo stabo. Ti hai presente di poi su questa 4009 ne hanno fatto 20 modelli diversi, che anche se tu vai a cercare, quello è diciamo l'ultima versione probabilmente, ma ce ne sono altri modelli enormi, simili, con le barre LCD, con il coso, barre fluorescenti, radio di LED, di coso, di frequenzime, di tutti i modi ce n'è di quella radio. Sono arrivato in ritardo io. Io ho ripreso nel 2010 e mi sono perso un bel po' di apparati belli, perché ho visto apparecchi dal 2000 al 2010.